voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jar. Tredicesima puntata. La mattina del 25 luglio 43 mi ero svegliata presto ed ero scesa in soggiorno per ascoltare di nascosto la radio. Fui dunque la prima in casa ad apprendere la caduta di Mussolini, ma quando comunicai il fatto alla nonna e a mia madre non fui creduta, ero capace di inventarmi anche la fine del mondo. Ebbi la rivincita pochi minuti dopo, quando la radio ripeté la notizia. Mia madre allora, in camicia da notte, in pantofole, si precipitò nella strada gridando «È finita, è finita, è caduto!» Fui scandalizzata e incredula. E non meno scandalizzata due mesi dopo, quando la popolazione, all'8 settembre, saccheggiò la caserma e io incontrai una ragazza notoriamente ricca e valdese con un paio di sci sulla spalla per la stradina che dalla caserma risaliva in paese. Dietro di lei Sergio Toia, che fu il primo poi a morire partigiano, spingeva una carriola carica di armi. Quella stessa carriola la portò nottetempo fino a casa nostra, dove, all'insaputa della nonna, seppellimmo le armi in cantina. Non riesco a ricostruire attraverso quali intermediari ci accordammo per l'operazione. Conoscevo pochissimo Sergio, più vecchio di me di 2 anni. D'altronde avevamo anche nascosto sotto le tegole del tetto alcuni numeri di Giustizia e Libertà di Alberto, ai quali lui sembrava tenere moltissimo e che io non lessi mai. Trovavo tutto incongruo. Non scorgevo nessi tra gli avvenimenti che non corrispondevano affatto alle mie abituali frequentazioni con la storia, cui corrispondevano invece le folle acclamanti e gli eserciti ben ordinati. Mi sembrò di nuovo stranissimo, e manco a dirlo scandaloso, che sempre all'8 settembre la nonna rivestisse di panni civili del nonno e dello zio alcuni soldati disertori. E per giunta neppure in casa, gli diede gli indumenti e li fece spogliare fino alle mutande sul pianerottolino dietro la clematide. Avevo conosciuto nel frattempo un antifascista, il mio professore d'italiano, il pastore Francesco Lobue, che non chiamavo ancora con il nomignolo d'amico Franchi, con il quale lo frequentai poi. Sapevamo che era sorvegliato. Lo studiavo con attenzione quando pian piano si voltava con le spalle verso la classe e guardava fuori mentre la radio trasmetteva, secondo l'obbligo, qualche comunicato straordinario. Con la stessa impassibilità, la barba lunga, lo sguardo svampito, perso chissà in quale sua precedente bevuta notturna di cui talvolta odorava ancora, o nei suoi studi teologici, penetrava in classe e passava adagio sotto il nostro braccio alzato nel saluto fascista. Mi irritava la lentezza con la quale andavamo avanti nel programma. A febbraio, in prima liceo, ci occupavamo ancora di San Francesco, annotando le osservazioni che Lobue ci dettava. Ma provavo per quella stessa lentezza una specie di rispetto. Mi trovavo per la prima volta di fronte alla qualità dello studio e alla noncuranza dei tempi. Avvertivo anche, senza peraltro che egli ne facesse in alcun modo particolare cenno, un'attenzione rivolta a me. Sotto un mio tema su Cecco Angiolieri, in un lungo commento apposto al voto in cui rilevava che il mio giudizio era già stato espresso, per quanto con maggiore perizia critica, dal Flora, che non conoscevamo, la parola perizia sostituiva sensibilità, che egli aveva scritto prima e poi cancellato. Quella cancellatura fu il primo riconoscimento letterario che ricevetti. Nel frattempo era incominciata la resistenza nelle nostre valli. Uno dei nuclei fondatori era nato per puro caso da noi, in Vicolo d'Agotti. Affittavamo una stanza a un giovinotto, fidanzato di Marisa, nostra vicina e coetanea. Era un uomo fatto, giudicavo perciò singolare la scelta di Marisa, un ufficiale degli Alpini. Entrando in camera sua con il vassoio del tè, lo trovai con altri due. avevano steso sul letto una grande carta della valle e vi segnavano dei punti con la matita. Ricollegai la carta e i cerchiolini a discorsi e commenti, e così, in quella stanza piena di fumo di sigarette, vidi per la prima volta, e fui incredula e non partecipe, disubbedire degli adulti. Con lo stesso estraniamento, come se si trattasse di qualche cosa che non mi riguardava, incontrai un mattino, alcuni mesi dopo, lo bue che veniva su dal paese barcollando. Pensai che fosse ubriaco. Mi fermò e disse: «Lo sai che Sergio è morto?» «Lo so», dissi. Ero un po' preoccupata per le armi sepolte in cantina. La zia olandese, che pure ignorava la cosa, minacciava tutti i giorni di denunciarci, e per il padre ebreo e per le nostre frequentazioni. Mi chiedevo chi sarebbe venuto a ritirarle adesso che Sergio era morto. Non provavo dolore per la sua morte, ma quello stupido senso di colpa che si prova da giovani quando muore un coetaneo. Non sapevo che cosa dire allo bue, lo salutai perciò e mi avviai verso il paese. Mentre andavo avanti, un'intuizione incominciò lentamente a farsi strada in me. Franchi non era ubriaco. Barcollava perché era disperato. Si rimproverava per aver incamminato Sergio verso la morte con i propri insegnamenti. Rimproveri assurdi, mi dicevo, ciascuno è responsabile di se stesso a qualsiasi età. Sentii però, di fronte a Franchi, che barcollava quasi fosse stato colpito lui insieme a Sergio, di nuovo una specie di rispetto. In quel suo vacillare intravedevo infatti la disperazione della vera pietà, quel che mi era ancora negata, perché continuavo a compassionare solo coloro nei quali riuscivo a impersonarmi. Disapprovavo la follia dell'impresa in cui Sergio aveva perso la vita. Disapprovai poi quasi tutte le imprese partigiane nella nostra valle, quelle almeno di cui ebbi conoscenza. Le trovavo disorganizzate, disordinate, inutilmente pericolose. Quando Franchi mi spiegò che avevano comunque l'intento di trattenere i tedeschi su un altro fronte, pensai, e lo dissi, alla sproporzione tra l'efficienza e il numero dei tedeschi e la pochezza disorganizzata dei partigiani. Correva voce a Torre Pellice che gli unici ben preparati e sufficientemente armati fossero i garibaldini di Luserna, i comunisti. Ignoro se perché lo fossero per davvero o se tali risultassero in confronto a Giustizia e Libertà. I miei amici erano tutti nelle bande di quest'ultima formazione. Non sapevo perciò nulla di preciso sui garibaldini di Luserna. Si parlava di loro come di gente del tutto priva di scrupoli, operai della fabbrica tessile, disertori russi e soldati meridionali rimasti intrappolati in Piemonte. Ma ciò non mi scandalizzava. Gli scrupoli erano d'ostacolo all'azione, che io stessa però affrontavo solo in teoria. Trovai atroce l'esecuzione di una famiglia fascista di Torre Pellice, si disse per mano di Giustizia e Libertà, esecuzione che indignò tutti. Ma benché mi rivoltasse la brutalità del fatto, ero tentata di ritenere logico che in seguito fosse uccisa nel suo letto d'ospedale da ignoti sicari la donna che forse avrebbe saputo indicare i nomi degli esecutori. Che la ragazza ricca si fosse portata via gli sci lo stimavo riprovevole, e ugualmente riprovevole il rischio inutile, lo spreco della vita. Vedendo un carrello pieno di neonati passare per il corridoio di una maternità, sono appagata come davanti alla vetrina di un panettiere. Mai mi sarebbe potuto neppure venire in mente di abortire. Quando i tedeschi e, nella fattispecie, gli Alpenjäger austriaci arrivarono a Torre Pellice e, accoccolata in soffitta nella casa di Marisa, li vidi dall'abbaino risalire la strada in camion per un rastrellamento su nella valle, seduti immobili uno accanto all'altro, il mitra tra le gambe, ne ebbi un'impressione di distanza enorme. Stavano seduti nei camion scoperti, le spalle un po' curve, indifferenti, come grigi sacchi di cemento. Non riconoscevo il mondo da cui venivano, non certo quello di Arminio e del brutto Anatroccolo, ma sapevo dove andavano. Andavano verso le montagne sulle quali avevo camminato con amici e coetanei, mentre i sassi si sfaldavano sotto i nostri scarponi. Vi andavano indifferenti e armati. Non potevo andare con loro. Mi tenni dunque dall'altra parte, al solito non fedele in assoluto. L'assoluto, infatti, restava dentro di me. L'esperienza, come sovente poi in seguito, decise delle mie azioni, non l'assoluto che portavo dentro. In quel mattino di giugno del 1944 pedalavo dunque accanto a Giorgio, che aveva le tasche rigonfie di carte. Ero incaricata di ricordare a memoria i dati che i suoi formatori, due merciaie e un giovinotto dalla barba rossa, gli fornivano. Lui non ricordava nulla e io vantavo la mia memoria di ferro. Ero però così poco attenta a particolari pratici. A casa mi adibivano a lavori più bruti, lavare i piatti e innaffiare le patate in fondo al prato, che dovevo stare molto attenta a non confondere il numero dei mitra con quello dei fucili mitragliatori. E del resto riconoscevo solo il tonfo del mortaio. Tutti gli altri spari per me erano spari. Al ponte di Bibbiana ci fermarono soldati italiani piuttosto giovani. Giorgio dice che erano SS rosse. Ci chiesero i documenti, ma il graduato, che leggeva l'esonero di Giorgio come studente in teologia, non sembrava persuaso. Chiese, con accento italiano, «Teologia, che vuol dire?» «Studio per diventare pastore», disse Giorgio. «E che vuol dire?» «Il prete dei Valdesi». «E te ne vai in giro con una ragazza, ma che prete, prete!» Così lo portarono via. Lo vidi allontanarsi sul ponte, a piedi, spingendo la bicicletta, tra i due soldati. Lo portavano a Bibbiana, distante circa 2 chilometri, dove c'era anche un comando tedesco. Mentre attraversava il ponte, le sue tasche mi parvero incredibilmente gonfie e vistose. Appoggiai la bicicletta a una panca e mi sedetti. Stavamo, io e le SS rosse, sotto un enorme ipocastano, proprio accanto all'imbocco del ponte. C'era un lungo tavolo con panche e vicino la cucina da campo. La giornata di giugno era bella e limpida, era circa mezzogiorno. Sentivo i piedi leggerissimi, sensazione mai ripetuta da allora. Portavamo infatti per 8 mesi gli scarponi e in alcuni casi, se dormivamo in ricoveri di fortuna, non ce li potevamo togliere neppure la notte. Le prime settimane in cui si camminava con le scarpe, i nostri piedi, appunto leggerissimi, annunziavano la primavera. Le SS rosse stavano cucinando un minestrone di fagioli e mentre l'odore saliva verso le fronde dell'ipocastano, in me saliva la fame di mezzogiorno. I soldati andavano e venivano, apparecchiavano la tavola. Incominciavo a inghiottire saliva. Sempre più denso e persuasivo mi circondava l'odore del minestrone. Per finire, era passata più di un'ora da quando avevano portato via Giorgio. Mentre avvicinavano il pentolone al tavolo e si mettevano a sedere, chiesi: «Me ne dareste un piatto? Ho fame!» Mi fecero sedere e mi riempirono una fondina di metallo. Stavamo terminando la minestra quando vidi ricomparire sul ponte Giorgio, che spingeva la bicicletta, sempre accompagnato a piedi dai due di prima. Le sue tasche mi sembrarono ancora gonfie. Arrivato al tavolo mi disse: «Andiamo, tutto a posto». Così ce ne andammo sulle nostre biciclette. Lui pedalava in silenzio e io cercavo invano di fargli raccontare che cosa fosse successo. Lo raccontò poi in seguito, non a me. Condotto a Bibbiana, nella caserma, lo avevano fatto aspettare. Poi lo avevano interrogato chi era, dove andava e che storia era quella del suo documento di esonero. Mentre dunque stavano già alzando la voce, non lo avevano però ancora perquisito, arrivò un ufficiale tedesco. Quando anni dopo si decise a riferire l'episodio anche a me, specificò: un bellissimo ufficiale, il quale, preso il foglio e vista la parola teologia, aveva detto ridendo: «Ah, ja, natürlich, Theologie, ja, ja, Theologie!» e datagli una pacca sulla spalla, lo aveva congedato. Ora, mentre ritornava verso il ponte e incominciava a passargli la paura, gli ero di nuovo venuta in mente io. Leggeva molto Dostoevsky e inoltre era un poco innamorato di me. Con quelle SS rosse, sola, abbandonata, in preda al terrore, attraversando il ponte mi aveva intravista al tavolo che, dice lui, secondo il tuo solito tenevi banco con tutti quei soldati. Me lo rimprovera ancora oggi quel mio piatto di minestra di fagioli, quasi fosse il piatto di lenticchie di Esaù. Potrei dirgli che conversando mi facevo passare la paura, gli farebbe piacere. Sa che quando sono depressa esco a conversare, converso con la panettiera, col macellaio, con la signora incontrata davanti a una vetrina, do consigli al giovane commesso del negozio d'abbigliamento e con il portinaio discorro di politica. non sarebbe esatto, tuttavia. Conversavo semplicemente, perché è piacevole chiacchierare mangiando una minestra di fagioli. Non ricordo affatto se le mie SS rosse fossero bellissime come il suo ufficiale tedesco. Ricordo solo il minestrone. Ero inoltre sicura che lui sarebbe ritornato indietro. Il mio ottimismo non mancava in fondo di senso della realtà, la quale era in quei tempi legata all'attimo e all'imprevedibile, e che quel mattino stava confinata nella circoscritta sezione con il grande tavolo di legno e la marmitta sotto il gigantesco ippocastano. Che fosse un castagno? Due settimane dopo presero Giorgio a Pinerolo, in seguito a una soffiata. Non ero andata con lui perché ero scesa a Torino per un esame. Frequentavo, per modo di dire, la facoltà di lettere. Non ascoltai più di 5 lezioni in locali sempre diversi perché l'università era stata bombardata. E affrontavo i disagi del viaggio solo in occasione di esami, appunto. Bombardavano spesso la stazione di Porta Nuova e si rischiava di dover fare chilometri a piedi. Venni a sapere la sera stessa dell'accaduto e mi toccò andare a Pinerolo a cercarlo in tutte le caserme. Che la smagliatura razziale rimasta nascosta in quella dichiarazione scolastica potesse rappresentare un rischio non venne in mente a nessuno, e tantomeno a me. Ero furibonda con Giorgio, che si era fatto pizzicare in quel modo idiota nella casa dove andava sempre e mi portò solo una volta, incontro a pericoli naturalmente inutili. Inoltre dovevo scoprire dove lo tenevano prigioniero, presentandomi, figura ridicola, al piantone come la sua fidanzata. Non lo trovai, lo avevano già trasferito a Torino e di là fu deportato in Germania. Gli scrissi una lettera in prigione, terminava con le parole: ciò nonostante, il giro per le caserme di Pinerolo che non avevo mancato di rimproverargli, ti voglio bene. La mia lettera era scritta su carta sottilissima e resistente. Se la portò in Germania e se la fumò tutta. Aveva imparato a torciarsi le sigarette, se le torce ancora oggi, fino alle parole ti voglio bene. Poi si fumò anche quelle. Parlando, ridendo, piangendo e mangiando più che potevo quando se ne presentava l'occasione, scrivendo lettere e camminando negli scarponi, passai dunque, innamorata e infelice, gli anni di guerra, come si passano anni qualsiasi. Assai di rado gli accadimenti mi intimorirono o addolorarono. Fui presa dal panico una volta a Torino. Stavo attraversando il ponte di Corso Vittorio quando incominciò a suonare il preallarme e subito dopo suonò l'allarme. Non andavo volentieri in rifugio. Ricordavo ancora gli orribili racconti dei primi bombardamenti su Torino, di cui avevamo visto i bagliori rossi su un tersissimo cielo notturno dietro i vetri stremanti. E cercavo sempre di stare fuori dal rifugio fino all'ultimo momento. Poi, come anche quella volta, vedendo correre qualcuno, mi mettevo a correre anch'io. Giunsi così, insieme con gli altri, davanti a uno dei rifugi scavati sotto il Monte dei Cappuccini, mentre verso Mirafiori si udivano i tonfi delle prime bombe. Quando intravidi, però, il foro nero dell'apertura del rifugio, cercai subito di svincolarmi dalla folla per non dover entrare. Ma la gente mi sollevò dal suolo, premendomi da tutte le parti, e mi trasportò dentro, tutta bagnata di terrore, sin nei miei scarponi. Patrizia Zappa-Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jar. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.